Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Buona giornata dall'Ariele, oggi al baretto qua sotto da Walt si cantava questa. Ovviamente tutti maschi, portinai, edicolanti, la gente che si incontra a quest'ora del mattino al bar, insomma. Se mi lasci non vale. Sembravamo una manica di invertiti, allora volevo iniziare così. Quella che è la puntata, maledetto Isaac Rizzi che non scrive il numero della puntata, 209. Manica di sono circondato da incompetenti. Puntata 209, scaletta scritta a mano. Ragazzi, il computer abbandonato. Pane, burro e rock and roll. Ma non mi fermo di fronte a un PC, sai? Neanche trombetta. Questo è PBR. Pane, burro e rock and roll. 2 ore in nostra compagnia fino alle 9 del mattino. Da contratto. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Guarda che è pazzesco quel ragazzo lì, Isaac Rizzi, oltre a arrivare quando c'ha voglia lui, ben dopo la chiusura della diretta. Vabbè, questi autoruncoli. Scusate, se inizio la puntata così con i fattacci personali. Una buona giornata anche ad Ernest. Ernest, saluta ai radioascoltatori. Ciao. È un casino tener pulito la baracca, Mannaggia. In diretta fino alle 9, 335-100-7777 il numero di SMS e ariel@radiorockfm.com la casella di posta elettronica. Ci inventeremo man mano che la puntata cresce che cosa combinare quest'oggi. Ormai siamo in pane, burro, rock and roll speciale free edition. Mi piace come nome. Comunque siamo in uno speciale. Arriverà Roberto Fricantoni, ma certo! Ah, da quando Spadino non c'è più, si respira un'altra atmosfera in questi studi. Io e Ernest, belli da soli. Te l'ho già cantata Ernest quella canzone? Spend the night together. Tomorrow I need you more than ever. Sembra di leggere un sottile filo di ironia nella canzone della premiata ditta Jagger Richards. Questa Let's Spend the Night Together dei Rolling Stone ha un sapore tutto suo alle 7-6 minuti del mattino, no? Di queste rockstar che se la cantano. Dai, passiamo la notte insieme. Oh, sono le 7 del mattino! Sveglia! Tra l'altro la premiata coppia, sempre Jagger Richards, Rolling Stone, sono controllati a vista, perché ieri, ricordo, c'è stata la segnalazione di un radioascoltatore che diceva: oh, guardate che a RDS, Radio Dimensione Suono, regalano i biglietti dei concerti degli Stones. Questo dai Rolling Stone non ce lo aspettavamo. Il radioascoltatore ha ragione, ma noi, per far capire quanto siamo rocker democratici, comunque continueremo ad ascoltare i Rolling Stone, anche se ogni volta che li sentiremo un po' dentro il nostro cuore penseremo: però ragazzi, potevate guardare anche la nicchia, voi che anche voi eravate della nicchia. Venerdì 21 di marzo 2008, l'anno della svolta contro il muro, un venerdì da affrontare con grinta, a denti stretti, visto che poi c'è pure la vacanza, arriva Pasqua, ehi, sciambola! Ragazzi, il Domodossola a Milano stamattina era gonfio di gente coi valigioni, tutti in vacanza, bravi, bene, buona Pasqua allora, si dice così, no? Arriva il buon Frick a farla al manacco? Sparem. Tanto ci sono i Cure. Jumping someone else's train. Saltando sul treno di qualcun altro. Senza il biglietto, ovviamente, e con le valigie. If you pick a bullet quick, you can say you È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta anche quest'oggi. Siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana. Grazie Dio, è venerdì. Thank God it's Friday. Buongiorno signor Antoni. Buongiorno DJ Ariele, che piacere ritrovarci qui nella postazione degli almanacchi. Esatto, perché cambiamo studio per fare gli almanacchi. Esatto. Per noi... avere un'atmosfera migliore. Esatto, noi che potiamo. Certo, avendo a disposizione dozzine di studi, possiamo girare da uno all'altro. Ci piace farlo, solo per sbattere in faccia la nostra opulenza. Complimenti maestro Antoni, questo inizio gagliardo per un 21 di marzo da affrontare a denti stretti, con un'ottima ricorrenza iniziamo, perché nel 1961 al Cavern Club di Liverpool debuttò una formazione che si chiamerà Beatles. Sì, è vero, i Beatles con la canzone Fagioli. No, ma che no, Fagioli. Dov'è l'errore? Era che i Fagioli degli Schianto. Ah, molto bene, la trovo preparata. È in forma questo venerdì, complimenti, è un piacere vederla bello allegro. 1969, il 21 di marzo, nella suite presidenziale dell'hotel Hilton di Amsterdam, torniamo a parlare di Beatles perché John Lennon e Yoko Ono danno il via al Bed-in per la pace. La coppia starà a letto per 8 giorni e la notizia avrà un eco internazionale enorme. Incisero la famosa canzone Give Peace a Chance. All we are saying is give peace a chance. Vogliamo anche ricordare che nel calendario 2008, l'anno della svolta, nel mese di novembre, il signor Antoni e il collega DJ Ariele interpretano immaginificamente la famosa coppia. La famosa coppia Lennon e Yoko, proprio in quei giorni lì. In quei giorni, nella nudi, fatidica ricorrenza del Bed-in nudi. Mese di novembre. È uno spettacolo, vi consigliamo l'almanacco solo per quello. Ma esatto. Dico, stare a letto 8 giorni, sì, non è un po' anche noioso, un filo noioso? Rischi le piaghe. Rischi le piaghe da, come si dice, decubito. Piaghe da decubito, infatti è una formula fissa. E poi volevo dire un'altra cosa, loro inviarono anche un tot di ghiande, mi pare, a tutti i capi ricordo di Stato del mondo. Cosa facciamo, cara? Ma inviamo qualche ghianda quest'oggi? Ma sì, dai, mandiamo una ghianda in segno di pace a tutti i potenti del mondo. Chiudiamo con un'altra bella notizia, questa volta italiana. 21 di marzo del 1999, il nostro Roberto Benigni riceve 3 Oscar con il film La vita è bella. Roberto! Roberto! Meritatissimi questi Oscar, però anche noi medaglia. Quando un Oscar a Pane Burro, esatto, ci meriteremo un piccolo riconoscimento. Ma sì, anche piccolino. Sì, un Oscarino. Oscarino. Un Oscar in miniatura. Per la sceneggiatura. Sì. Barba, mettimi un po' di zucchero, tipo una roba così. The Flappard, questo è Pane, Burro e Rock and Roll. Già bella gonfia di messaggi, noto con molto molto piacere, l'ho fatto notare forse anche ieri, che in molti stanno continuando a rispondere alla domanda di un paio di puntate fa, che era perché ascoltate Rock FM. Mi fa piacere, soprattutto perché state rispondendo ad Ariel @ radiorockfm.com, e la domanda effettivamente è sempre valida, quindi volendo rispondete lì, anche se, ripeto, come il giorno in cui ho lanciato quella domanda, è un piacere sentirvi in voce. Il bello, l'obiettivo di questa trasmissione è fondamentalmente non fare nulla noi e far fare tutto a voi là fuori. A questo proposito, visto che ho segnalato come sia veramente poco efficace il mio autore Isacco Rizzi, un radioascoltatore mi faceva notare questa cosa: hai mai pensato che la differenza tra te, caro Ariele, e Fiorello potrebbe dipendere solo dagli autori che ti circondano? E forse dal conto corrente, eh? Poi io non ho mai fatto il karaoke, però poi siamo belli uguali e famosi uguali. We the people fight for our existence. We don't claim to be perfect, but we're free. We dream our dreams alone with no resistance. Fading like the stars we wish to be. Vamos! Little by Little, Oasis. Sto cercando di prendere una seria decisione su cosa combinare questa mattina. Sicuramente l'obiettivo principale sarà quello di accompagnarvi come ogni giorno al lavoro con buona musica e un po' di stupidate, grazie all'ausilio di Roberto Fricantoni, ma vorrei andare a fondo su sta cosa dei Rolling Stones su RDS. Tiziano, ho bisogno di capire bene come funziona, perché io non l'ho mica visto che vinci biglietti per il concerto adesso. Fiorello ha degli autori molto più attendibili di voi, questo è sicuro. Però io ne ho di più, perché ho tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Farò una cosa che non ha senso, ecco, altro che fuori dalle regole, non ha senso. Ieri stavo smanettando nell'archivio, prima che si fondesse anche il computer con dentro tutte le cose che abbiamo fatto qui a Rock FM, e mi sono saltati fuori un po' di gingolini, di quelli che anche qui a Pane, Burro e Rock and Roll spesso mi capita. Ariele, perché non mi mandi la sigla quella di Frigidaire? Frigidaire, per chi non lo sapesse, è un programma che conducevo, che ho condotto per 2 o 3 anni nel pomeriggio di Rock FM, e effettivamente con la lacrimuccia ieri li tiravo fuori e ho detto, vabbè, ma perché non farli sentire a Pane, Burro e Rock and Roll? Tipo, che scheme ne fotte a moi? C'erano dei ragazzi gentili che si chiamavano 40 Wings, che un anno fa hanno fatto un disco che spaccava tutto, e un giorno li ho intervistati a Rock FM e mi hanno regalato questo jingle qua. Oh, ascolto Frigidaire, Ariel dice più figo no non c'è, sembra Lemmy dei Motorhead, Frigidaire. Ai ai ai, ai ai ai. Thank you. Adesso Gigi, per farsi perdonare, vi offro un bel caffè. Pane, burro e rock and roll. Viva il caffè! È sicuro che è quello buono? Io lo mandi giù e io ti tira su.